E quanto al godimento che i bei pensieri di un maestro danno a un intelletto pienamente giusto, a un cuore davvero vivo, si tratta sicuramente di qualcosa d'affatto sano, ma per quanto preziosi siano gli uomini che lo gustano sino in fondo, quanti ce ne sono in 20 anni? Esso li riduce comunque a non essere che la piena consapevolezza d'un altro. Se un uomo ha tentato di tutto per essere amato da una donna che avrebbe potuto fare soltanto la sua infelicità, ma non è nemmeno riuscito, malgrado gli sforzi reiterati per anni, a ottenere da lei un appuntamento, lui, anziché cercare di esprimere le proprie sofferenze e il pericolo al quale è scampato, rilegge di continuo, aggiungendovi 1 milione di parole e i più commoventi ricordi della sua vita, questo pensiero di La Bruyère: spesso gli uomini vogliono amare e non ci riescono, cercano il proprio male e non lo trovano, e se così posso osare ed esprimermi, sono costretti a rimanere liberi. Sia o non sia stato questo il senso di tale pensiero per chi lo scrisse, perché fosse così e sarebbe più bello, dovrebbe esserci essere amati al posto di amare, è un fatto che il nostro sensibile letterato lo vivifica dentro di sé, lo gonfia di significato sino a farlo esplodere. Non può ripeterlo senza sentirsi sopraffare dalla gioia, tanto lo trova vero e bello. Eppure, malgrado tutto, non vi aggiunge nulla, ed esso continua a essere soltanto il pensiero di La Bruyère. Come potrebbe la letteratura di notazioni avere un valore purché sia, dal momento che solo al di sotto di piccole cose come quelle che essa nota è contenuta la realtà, la grandezza nel rumore distante d'un aeroplano o nella linea del campanile di Saint-Hilaire, il passato nel sapore d'una Madeleine, eccetera, e dato che esse sono di per sé prive di significato, se non siamo noi a estrarlo. A poco, conservata dalla memoria, la catena di tutte queste espressioni inesatte, dove non resta niente di quanto abbiamo realmente provato, viene a costituire per noi il nostro pensiero, la nostra vita, la realtà, e nient'altro che questa menzogna potrebbe riprodurre un'arte sedicente, vissuta, semplice come la vita, senza bellezza, ripetizione a tal punto noiosa e vana di ciò che i nostri occhi vedono e la nostra intelligenza constata, che ci si domanda dove colui che vi si dedica trovi la scintilla gioiosa e dinamica capace di porlo in cammino e di farlo avanzare nel suo lavoro. Invece la grandezza dell'arte vera, quella che il signor di Norpois avrebbe chiamato un gioco da dilettanti, era di ritrovare, di riafferrare, di farci conoscere quella realtà lontani dalla quale viviamo, rispetto alla quale deviamo sempre di più a mano che prende spessore e impermeabilità la conoscenza convenzionale con cui la sostituiamo, quella realtà che rischieremmo di morire senza aver conosciuta e che è molto semplicemente la nostra vita, la vera vita, la vita finalmente riscoperta e illuminata, la sola vita, dunque, pienamente vissuta, è la letteratura, vita che in un certo senso abita in ogni istante in tutti gli uomini, non meno che nell'artista, ma essi non la vedono perché non cercano di illuminarla. E così il loro passato è ingombro di innumerevoli negativi che restano inutili perché l'intelligenza non li ha sviluppati. La nostra vita e anche la vita degli altri, perché lo stile per lo scrittore, come il colore per il pittore, non è una questione di tecnica, ma di visione. È la rivelazione, che sarebbe impossibile attraverso mezzi diretti e coscienti, della differenza qualitativa esistente nel modo in cui il mondo ci appare, differenza che se non ci fosse l'arte resterebbe il segreto eterno di ciascuno. Solo attraverso l'arte possiamo uscire da noi, sapere cosa vede un altro di un universo che non è lo stesso nostro e i cui paesaggi rimarrebbero per noi non meno sconosciuti di quelli che possono esserci sulla Luna. Grazie all'arte, anziché vedere un solo mondo, il nostro, lo vediamo moltiplicarsi, e quanti sono gli artisti originali, altrettanti mondi abbiamo a nostra disposizione, più diversi gli uni dagli altri di quelli che ruotano nell'infinito, mondi che mandano ancora fino a noi il loro raggio inconfondibile molti secoli dopo che si è spento il fuoco. Si chiamasse Rembrandt o Vermeer, da cui esso emanava. Questo lavoro dell'artista, cercar di scorgere sotto la materia, sotto l'esperienza, sotto le parole, qualcosa di diverso, è esattamente l'inverso del lavoro che compiono incessantemente in noi quando viviamo distolti da noi stessi. L'amor proprio, la passione, l'intelligenza, l'abitudine, ammassando sopra le nostre impressioni vere per nascondercele completamente, le nomenclature, le finalità pratiche che chiamiamo erroneamente la vita. Insomma, quell'arte così complicata è precisamente la sola arte viva. Essa sola esprime per gli altri e fa vedere a noi stessi la nostra propria vita, la vita che non può essere osservata, le cui apparenze, una volta osservate, hanno bisogno d'essere tradotte e spesso lette alla rovescia e decifrate con fatica. È il lavoro fatto dal nostro amor proprio, dalla nostra passione, dal nostro spirito d'imitazione, dalla nostra intelligenza astratta, dalle nostre abitudini, quello che l'arte dovrà disfare, quello che l'arte ci farà compiere, è il cammino in senso opposto, il ritorno alla profondità, dove ciò che è realmente esistito è sepolto, a noi sconosciuto. Ed era certo una grande tentazione, quella di ricreare la vera vita, di ringiovanire le impressioni, ma ci voleva coraggio, coraggio d'ogni genere, anche sentimentale, perché voleva dire, innanzitutto, abrogare le proprie illusioni più care, smettere di credere all'oggettività di ciò che noi stessi abbiamo elaborato, e anziché cullarsi per la centesima volta con le parole, era proprio graziosa leggere in trasparenza. Mi dava piacere baciarla. Quello che io avevo provato in quelle ore d'amore, lo provano, è vero, tutti gli uomini. Si prova, ma ciò che si è provato è come certi negativi, in cui si vede solo del nero finché non li si mette contro una lampada, e che bisogna guardare, anch'essi, alla rovescia. Non si sa cosa sia finché non lo si avvicina all'intelligenza. Solo allora, quando questa l'ha illuminato, quando l'ha intellettualizzato, si distingue, e con quanta fatica, la figura di ciò che si è sentito. Ma mi rendevo anche conto che la sofferenza, conosciuta da me per la prima volta con Gilbert, che l'amore che proviamo non appartenga all'essere che lo ispira, è una sofferenza salutare. Accessoriamente come mezzo, giacché per poco che debba durare la nostra vita, è solo fin tanto che soffriamo che i nostri pensieri, in qualche modo agitati da movimenti perpetui e mutevoli, fanno salire, come in una tempesta, a un livello a cui possiamo vederla tutta quell'immensità regolata da leggi, sulla quale, appostati a una finestra mal situata, non abbiamo vista alcuna, perché la bonaccia della felicità la mantiene compatta e a un livello troppo basso. Forse solo per qualche grande genio quel movimento è costante, senza bisogno delle agitazioni del dolore, e ancora non è sicuro quando contempliamo l'ampio e regolare svilupparsi delle loro opere gioiose, che non siamo troppo portati a supporre, in base alla gioia dell'opera, quella della vita, che è stata, forse al contrario, costantemente dolorosa. Ma principalmente perché, se il nostro amore non è solo d'una Gilbert, il che ci fa tanto soffrire, non è perché sia anche l'amore di un'Albertine, ma perché è una porzione della nostra anima, più durevole dei diversi io che muoiono uno dopo l'altro in noi e che vorrebbero egoisticamente trattenerlo, e per il fatto che per quanto grande sia il male, male peraltro utile, che questo ci può fare. Deve staccarsi dagli esseri per ricomporne la generalità e per consegnare quell'amore, la comprensione di quell'amore, a tutti, allo spirito universale, e non a questa e poi a quella con cui questo e poi quello di coloro che noi siamo successivamente stati vorrebbero fondersi. Bisognava che restituissi ai minimi segni che mi circondavano Germain, Albertine, Gilbert, Saint-Leu, Balbec, eccetera, il senso di cui l'abitudine li aveva privati ai miei occhi, e una volta raggiunta la realtà, per esprimerla, per conservarla, dovremo scartare ciò che è altro da essa e che la velocità d'inerzia dell'abitudine continua a far fluire verso di noi. Soprattutto avrei dovuto scartare le parole scelte dalle labbra più che dall'intelletto, le parole piene di spirito come se ne dicono conversando, che dopo una lunga conversazione con gli altri continuiamo a rivolgere artificiosamente a noi stessi e ci riempiono la testa di menzogne, parole affatto fisiche cui s'accompagna, nello scrittore che s'abbassa a trascriverle, il sorrisetto, la piccola smorfia che altera di continuo, per esempio, la frase parlata di un Sainte-Beuve, mentre i veri libri devono essere figli non della piena luce delle chiacchiere, ma dell'oscurità e del silenzio. E poiché l'arte ricompone esattamente la vita intorno alle verità che uno ha trovate in se stesso, aleggerà sempre un'atmosfera di poesia, la dolcezza di un mistero che non è che il vestigio della penombra che abbiamo dovuto attraversare, l'indicazione, segnata esattamente come da un altimetro, della profondità di un'opera. La profondità, infatti, non è inerente a determinati soggetti, come credono certi romanzieri che sono materialisticamente spiritualisti, perché non sono capaci di scendere oltre il mondo delle apparenze, e che con tutte le loro nobili intenzioni, simili alle virtuose tirate tipiche di persone incapaci del minimo atto di bontà, non possono impedirci di notare che non hanno avuto nemmeno la forza spirituale di sbarazzarsi di tutte le banalità della forma acquisite attraverso l'imitazione. Quanto alle verità che l'intelligenza, anche quella degli ingegni più alti, coglie allo scoperto davanti a sé, in piena luce, possono avere un grandissimo valore, ma hanno contorni più secchi e sono piatte, senza profondità, perché non ci sono state profondità da attraversare per raggiungerle, perché non sono state ricreate. Molte volte, scrittori in fondo ai quali non scorgiamo più queste verità misteriose, scrivono, a partire da una certa età, solo con l'intelligenza che si è vie più rafforzata. I libri della loro età matura hanno così più forza di quelli della loro giovinezza, ma non hanno più lo stesso velluto. Sentivo, peraltro, che le verità che l'intelligenza ricava direttamente dalla realtà non sono del tutto da disprezzare. perché potrebbero incastonare in una materia meno pura, ma pur sempre imbevuta di spiritualità, le impressioni che ci giungono al di fuori del tempo, dall'essenza comune alle sensazioni del passato e del presente, ma che, se sono più preziose, sono anche troppo rare perché l'opera d'arte possa esserne unicamente composta. Sentivo premere dentro di me, suscettibili d'essere utilizzate a tale scopo, una folla di verità concernenti le passioni, i caratteri, i costumi. Percepirle mi dava gioia. Eppure mi sembrava di ricordare che alcune le avevo scoperte nella sofferenza, altre in ben mediocri piaceri.